Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Sette, otto minuti, un'altra puntata di Focus Economia. I temi di questa giornata economico-finanziaria: i consumi italiani, mai così male da quando esiste la serie storica, dal 2001, con un crollo anche dei consumi alimentari. Di questo parleremo nella seconda ora del programma, ne parleremo col presidente dell'Istat, che oggi ha diffuso il dato, Enrico Giovannini, e poi con il presidente di Confindustria, Giorgio Squinzi, con cui parleremo sia di consumi ma anche e soprattutto di quello che deve fare l'Europa, visto il vertice del 28 e 29 giugno, quindi mancano due giorni, ma anche visto l'incontro oggi dei ministri delle finanze dei vari paesi dell'area euro. Per l'Italia c'era il premier Mario Monti, perché anche la delega ha tenuto a sé la delega alle finanze e all'economia. Il vertice di oggi a Parigi inizierà alle 19, dovrebbe esserci un comunicato molto secco verso le 20:30 da Parigi, nessuna conferenza stampa. Ci sono però delle dichiarazioni di Monti in audizione oggi in aula a Montecitorio, nel suo intervento a Montecitorio. Per quello che riguarda quindi i temi europei, si discuterà fra due ore della bozza, non è corretto, diciamo, del documento presentato dalla Banca Centrale Europea, ossia Mario Draghi, dalla Commissione Europea e quindi Van Rompuy, Manuel Barroso e Jean-Claude Juncker. La Banca Centrale Europea e la Commissione Europea e l'Unione Europea hanno presentato un documento di vari punti sulla sicurezza delle banche entro il 2012, sulla possibilità che si possa emettere un debito comune in Europa, passi adeguati verso una comune emissione di debito, e poi anche sui project bond, cioè obbligazioni europee da legare a progetti soprattutto infrastrutturali, e un aumento della Banca Europea per gli investimenti sul suo capitale a 60 miliardi per rafforzare la capacità di prestito. Insomma, tutto un insieme di elementi. Nel giorno in cui l'OCSE, ne parleremo fra poco, ha lanciato un allarme, ha detto il capo economista Piercarlo Padoan, nostro ospite parecchie volte, ha detto: attenzione, o nel summit del 28-29 arriva una decisione, o c'è un rischio di contagio molto molto alto per Italia e per la Spagna. Ancora, per quello che riguarda la dichiarazione di Mario Monti, ha detto che il summit sarà difficilissimo, serve il sostegno del Parlamento, di questo parleremo anche a breve. Altro tema riguarda, appunto, oltre che i consumi e il tema europeo, la vicenda Monte dei Paschi. Qui è un tema molto di borsa, il titolo perde molto anche oggi, gli aiuti di Stato meno 5,41%, 2 miliardi, e su questo è arrivata l'ufficializzazione, chiaramente. Però il CDA del Monte dei Paschi di Siena, come era ampiamente atteso, ha ufficializzato la richiesta di aiuti di Stato, la sottoscrizione di un prestito obbligazionario fino a 3 miliardi, compresi però i 2 miliardi che servono per rimborsare, appunto, i Tremonti bond emessi da Monte dei Paschi nel 2009. Questa mattina il Consiglio dei Ministri aveva dato via libera all'operazione, dicendo che c'è una disponibilità massima di quasi 4 miliardi, compresi i 2 che deve ridare Monte dei Paschi per averli presi a suo tempo nel 2009. E anche di questo parleremo. La borsa come va? Meno 1,40% Milano, meno 0,50 Parigi, meno 0,13 Francoforte e invariata Londra. L'America meno 0,30. Nessun recupero, nessun tonfo dopo quello di ieri, però. Monte dei Paschi perde il 5,41, A2A il 5, in pregilo il 4,80, come la Popolare Emilia Romagna, il 3,90 lo perde Mediolanum e Ansaldo STS, il 3,60 UbiBanca e Finmeccanica, il 3,40 il calo del Banco Popolare e di Fiat, il 2,80 quello della Popolare di Milano e di Atlantia, il 2,70 quello di Salvatore Ferragamo di Campari. Chi guadagna? Telecom Italia lo 0,20, Enel invariata, Luxottica invariata, Enel Green Power perde poco, lo 0,35%, calo contenuto anche per Generali meno 0,50 ed Eni meno 0,60%, Saipem meno 0,80, euro a quota 1,24. E allora, visto che la giornata è molto ricca di temi e di ospiti, andiamo subito e rapidamente con le notizie in breve. Prendo spunto da un messaggio che è arrivato appunto al 349-238-6666. Dice: ma insomma, Monti è impazzito con tutti questi vertici. Il 4 luglio un altro bilaterale con Angela Merkel. Basta, non se ne può più, un'angoscia. No, mi permetta di dissentire, nel senso che convincere qualcuno, e se questo qualcuno si chiama Germania e Angela Merkel, ad adottare una linea comune europea, non è un'operazione che fai in un giorno. E quindi se tutti questi vertici servono con un lavoro che gli inglesi chiamano di fine tuning, di affinamento sottile, a trovare poi una formula che vada bene anche alla Germania e che però tranquillizzi i mercati, allontani la speculazione, meglio un vertice in più che uno in meno. Il problema è che non abbiamo molto tempo, nel senso che già si sono visti a Roma i quattro leader, oggi i ministri delle finanze, 28 e 29 giovedì e venerdì chiaramente i capi di stato di governo, e poi il 4 luglio di nuovo Mario Monti con Angela Merkel. Dobbiamo arrivare, da quello che leggiamo, da quello che tutti ci chiedono, OCSE, Fondo Monetario, la Casa Bianca, arrivare a un accordo entro l'estate, cioè prima che inizi l'estate. Intanto il nostro spread vola a 460 punti, il rendimento del BTP italiano a 10 anni del 6,11%. Dopo il taglio ampiamente atteso da parte di Moody's, l'agenzia di rating che ha tagliato ieri il voto a 28 banche spagnole, oggi anche la Spagna ha visto salire lo spread a 522 punti, la differenza con la Germania, e i rendimenti dei BTP spagnoli a 10 anni ormai sono al 6,73%, e infatti la Spagna oggi ha venduto 3 miliardi di obbligazioni, i tassi sono volati, si trattava del trimestrale del bot a 3 a 6 mesi, il trimestrale è balzato dallo 0,80% di rendimento al 2,30%, sono quasi a 3 volte, e anche il semestrale è balzato dall'1,73% al 3,23%. Anche noi abbiamo collocato titoli di Stato, 3 miliardi di CTZ, il tasso italiano è salito al 4,7% contro il 4% secco dello scorso 28 maggio, ma siamo sotto la soglia, non solo psicologica, del 5%. Avete ragione, siamo già in estate, però avete capito cosa voglio dire, che questo accordo sull'euro va chiuso prima di, non si può arrivare a settembre in queste condizioni, sennò l'estate sarà un massacro. Va bene così. Del commercio italiano abbiamo detto, e le vendite alimentari, visto che ce lo chiedete, ma ne parleremo ampiamente nella seconda ora del programma, hanno avuto il calo più forte da 11 anni a questa parte. Addirittura i Codacons dicono che sugli alimenti, sugli alimentari pro capite, siamo tornati indietro in termini reali al 1979. E l'ANCE, che ha pubblicato oggi l'Osservatorio Congiunturale, diffonde i dati per cui gli investimenti sono calati del 6%. L'ANCE è l'Associazione Nazionale dei Costruttori dell'Edilizia Italiana, meno 6% gli investimenti nell'edilizia, persi 500.000 posti di lavoro in tutti i settori collegati all'edilizia, i 43 miliardi di risorse in meno per l'edilizia riportano l'edilizia italiana ai livelli del 1976. E mentre il sottosegretario Polillo torna a parlare delle vacanze, dice: o lavoriamo di più o i salari sono a rischio, o noi lavoriamo di più o questo livello salariale medio è insostenibile, e invita nel pubblico impiego a usare le norme che ci sono, come quella sulla mobilità. Devo dire che siamo assolutamente d'accordo. Il premier Mario Monti, intervenuto appunto alla Camera, è tornato sul tema degli esodati e ha detto: ci siamo impegnati come governo a risolvere il problema degli esodati. Per questo è necessario aver fatto tutto quel percorso di riforme e di contenimento della finanza pubblica, percorso faticoso in cui una larghissima parte di questo Parlamento, non sempre con gioia, spesso con rammarico e sofferenza, ha sostenuto il governo, ma questo è stato essenziale per dare credibilità al nostro Paese, e per questo è necessario dare un segnale anche attraverso l'approvazione della riforma del mercato del lavoro, che è giudicata uno degli elementi centrali dell'agenda delle riforme strutturali. Il Governo si è perciò impegnato per ottenere dal Parlamento la tempestiva approvazione della riforma, Come sapete, ci siamo impegnati a risolvere tempestivamente, con appropriate iniziative legislative, altri problemi posti dai gruppi parlamentari, e lo voglio qui confermare: la questione degli esodati e alcuni aspetti della flessibilità in entrata e degli ammortizzatori sociali. Ma cos'è questa crisi? Ma cos'è questa crisi? Ah, la crisi. Eh sì, perché mentre Mario Monti assicura che risolverà il problema degli esodati, noi continuiamo a raccontare i compiti che dobbiamo fare a casa, e per questo che ci permettiamo poi di chiedere alla Germania anche altre azioni, perché riteniamo che si possono portare avanti le due cose: fare i compiti noi, tagliare la nostra spesa pubblica improduttiva, e da un lato chiedere però alla Germania di non fare affondare l'Europa, perché nell'affondare l'euro affonderebbe anche essa stessa, così evitiamo manicheismi. Non è che è tutta colpa della Germania o tutta colpa nostra, ci sono colpe ben distribuite, noi ne abbiamo di parecchie. Allora, ne abbiamo parecchie. Innanzitutto, siccome sono due notizie sull'Italia, chiederei una cortesia in regia se potessi avere una base d'accompagnamento, perché questo è paese del sole, paese del mare, paese a pizza e fichi. Eh sì, partiamo dalla SIAE, la società degli autori ed editori, che è tecnicamente un gruppo familiare, perché 527 dei 1250 assunti alla SIAE, di quelli a tempo indeterminato, che sono il 42% del totale, vantano legami di famiglia o di conoscenza. 600 sono entrati per chiamata diretta, 270 sono parenti. Anche quelli reclutati tramite il collocamento obbligatorio, su 128, 57 sono parenti e 55 hanno superato le selezioni speciali. Ma insomma, vediamo che cosa determina poi assumere parenti o conoscenti. Io non lo trovo un modello di grande efficienza, ma vediamo se alla SIAE questa cosa funziona. Beh, tanto uno stipendio medio di 64.000 euro e per i dipendenti e 158.000 euro lordi per i dirigenti. Complimenti per stare alla SIAE. Ma c'è un sistema di automatismi che fa lievitare le buste paga in una maniera bellissima, a ritmi biennali. Praticamente ogni due anni la busta paga di chi lavora alla SIAE aumenta del 7,5 all'8,5%. Pensate che c'è l'indennità lavanderia, 10,91 euro. Scatta dopo il quarto giorno fuori sede, perché giustamente al quarto giorno non puzza solo il pesce, puzza anche il dipendente della sede. Indennità lavanderia, per carità. L'indennità di penna, somma mensile, minimo 53 euro, massimo 160, riconosciuta al personale per il passaggio dalla penna al computer e il passaggio dalla clava alla spada. Quanto gli avete dato di indennità? Cioè 160 euro riconosciuta al personale della SIAE per il passaggio dalla penna al computer. C'è poi il premio di operosità, la gratifica per l'epifania, i 3 giorni di franchigia per malattia senza obbligo di certificato medico, 36 giorni di ferie. Le conseguenze, voi direte, beh, l'azienda va benissimo, infatti ha perso 21 milioni nel 2006, 34 milioni nel 2007, 20 milioni nel 2008, 21 milioni nel 2009, 27 milioni nel 2010, e con 190 cause di lavoro che hanno un costo medio per l'azienda di 1 milione e 500 mila euro l'anno. Un primo applauso va alla SIAE, alla grande famiglia dei dipendenti SIAE, che chiudono in perdita ma hanno l'indennità di lavanderia e l'indennità di penna. Un applauso, vai! Ma cos'è questa crisi? Ma cos'è questa crisi? Ah, la crisi. E chiudiamo con una chicca, nella speranza che non ci senta Angela Merkel e neanche Oscar Giannino, che con cui abbiamo un rapporto, lo dico ogni volta, di amicizia. Lui la pensa in maniera diversa sulla Germania, ma è bella Radio 24 perché ci sono diverse opinioni, no? Cosa volete? Una radio monolitica. Dunque, questa è bellissima. L'ex sindaco di Palermo, Diego Cammarata, che si è dimesso, lo vorrei ricordare, a gennaio, sotto il peso di un'amministrazione, quella del comune di Palermo, che è sull'orlo del fallimento. Giustamente, quando un sindaco si dimette e ha un comune che rischia il fallimento, cosa succede in Italia? Succede che diventi il maggiore esperto per tagliare i costi di Palazzo Madama. Cioè, nel senso che Cammarata, che ha avuto un'azienda di rifiuti a Palermo, che ha inghiottito in 10 anni 850 milioni di euro l'azienda dei rifiuti di Palermo. La GESIP, che gestisce i servizi impianti pubblici, ha finito i soldi. Il commissario straordinario nominato dopo le dimissioni di Cammarata ha dovuto varare un bilancio da lacrime e sangue, praticamente non lo osano neanche approvare. In un comune che vanta 9.594 dipendenti, praticamente uno ogni 69 abitanti, beh, Cammarata è diventato l'uomo che dovrà tagliare i costi di Palazzo Madama del Senato. Il percorso che l'ha portato al Senato è un percorso un po' complicato, non ve lo posso ricordare, ma insomma... lui sarà quello che si deve occupare di tagliare i costi del Senato. Immagino che abbia un'esperienza, avendo un'esperienza enorme di sprechi, è come quando tu assumi un hacker per avere maggiore sicurezza nel tuo sistema informatico. Vediamolo un po' così. Dai. Ma cos'è questa crisi? Ma cos'è questa crisi? Ah, la crisi. Questa non sarà una riunione nella quale si andrà ad apporre un visto formale a documenti preparati. E quindi, per quanto mi riguarda, sono pronto a restare oltre il limite previsto della riunione del Consiglio europeo e del Vertice euro e a lavorare fino a domenica sera, se sarà necessario, perché alla riapertura del mercato lunedì 2 luglio ci si presenti irrobustiti da un pacchetto per la crescita, una visione per il futuro dell'integrazione, ma anche da meccanismi soddisfacenti per reggere alle tensioni del mercato. Non possiamo permetterci che questa straordinaria opera della costruzione europea, alla quale l'Italia ha sempre contribuito, possa andare distrutta. Così il Premier Mario Monti oggi in aula prima di partire per il Vertice di Parigi in quanto Ministro delle Finanze, e il riferimento era invece al Vertice del 28 e 29. Abbiamo messo anche la nostra ballata dell'euro con Sirtaki, Flamenco, Tarantella e la Quinta di Beethoven, ma ci colleghiamo adesso con Bruxelles, dove c'è il corrispondente del Sole 24 Ore, Beda Romano. Buonasera, Beda. Buonasera. Non so se hai sentito la prima parte del programma, c'erano delle notizie sugli sprechi della nostra pubblica amministrazione, che se le sente anche la Merkel non molla certo il colpo. Comunque, cos'è questo documento e soprattutto quale sarà la sua funzione il 28 e 29, quando arriveranno tutti i premier dei paesi dell'euro? Il documento, dicevo, Van Rompuy, Barroso, Mario Draghi e Juncker. Intanto chiariamo lo scopo e l'utilizzo di questo documento. Questo documento è stato chiesto dal Consiglio europeo alla fine di maggio, è stato chiesto al Presidente del Consiglio europeo Herman Van Rompuy, ed è un documento che deve servire ai capi di Stato e di Governo per riflettere al futuro dell'Unione monetaria. I governi hanno capito che questa crisi sta mettendo in difficoltà la ragion d'essere dell'Unione monetaria, hanno capito che l'Unione monetaria deve evolvere in qualcosa di molto più solido e di molto più strutturato, e quindi hanno chiesto a Herman Van Rompuy di tratteggiare i contorni di una futura zona euro. Il documento è un documento di 7 pagine che mette l'accento fondamentalmente su 3 pilastri. l'unione bancaria, l'unione economica e l'unione di bilancio. È un documento che guarda al medio-lungo termine, non è un documento che offre delle soluzioni a breve termine per risolvere la crisi debitoria di oggi. Però ci sono dei punti importanti. Tu hai ben chiarito come, insomma, questo è l'invito molto molto insistito da parte della Banca Centrale Europea, dell'Eurogruppo, della Commissione Europea, a dire attenzione, ragionate su questi spunti, perché la situazione è talmente critica sulla tenuta dell'euro che non possiamo permetterci documenti così di soluzioni di principio. C'è qualche elemento che ci porta a dire, insomma, dove potrebbe indirizzarsi la discussione? Per esempio, entro la fine del 2012 l'Unione Europea dovrà dotarsi di un meccanismo di messa in sicurezza del sistema bancario, creando uno schema comune per le garanzie sui depositi e un fondo comune con potere di risoluzione per la gestione della crisi. Questo è uno dei passaggi. Vanno fatti passi adeguati verso una comune emissione del debito e anche verso project bond, cioè obbligazioni debito per finalizzato a investimenti di carattere europeo. Cioè, tu che sensazione hai ricevuto sull'indirizzo che vuole dare questo documento? Ma come tutti i documenti europei, questo è un documento di compromesso, inevitabilmente. È un documento di compromesso perché deve cercare di tener conto di tutte le sensibilità nazionali in Europa. È interessante, per esempio, che il documento non citi mai la parola sovranità. Non è un caso, perché ci sono alcuni paesi, a cominciare dalla Francia, ma tenderei anche a pensare all'Olanda, dove l'idea di un trasferimento di sovranità dalla periferia al centro è tuttora un problema politicamente molto delicato. Quindi è un compromesso, ed è un compromesso anche nel linguaggio. Ho l'impressione che gli autori lo hanno scritto con l'idea che alcune cose siano più semplici di altre. Direi che è più semplice, per esempio, rafforzare l'unione economica, in altre parole rafforzare il controllo reciproco tra i Paesi membri, e credo sia anche più semplice creare un'unione bancaria, in parte perché sia la prima parte che la seconda non necessitano di un cambiamento dei trattati. Per esempio, per quanto riguarda l'unione bancaria, l'idea di una sorveglianza centralizzata a livello europeo è prevista dai trattati, basterebbe applicare l'articolo 127 del testo e quindi trasferire la sorveglianza bancaria, che oggi è a livello nazionale, direttamente alla Banca Centrale Europea. Molto più complicato invece è il terzo pilastro, in altre parole l'unione di bilancio, la mutualizzazione dei debiti. Lì è necessario inevitabilmente una modifica dei trattati e in alcuni casi anche una modifica delle costituzioni nazionali, penso in particolare alla Costituzione tedesca. Beh, diciamo che sì, sul debito tu hai ragione, nel senso che lì bisognerebbe cambiare poi il dettato costituzionale. Sulle banche però già quello potrebbe avere un bel effetto sui mercati, nel senso che in questo momento noi dobbiamo cercare soprattutto di tener botta, visto quello che sta succedendo sulle borse, sugli spread, e poi di arrivare chiaramente a un'Europa più politica, perché l'errore, che la lezione che abbiamo imparato è che se parliamo con 15-17 voci, e di cui alcune più forti e altre più flebili, non si va da nessuna parte. Però dobbiamo in primo luogo tener botta, altrimenti ci aspetta un'estate non calda, rovente. E forse è da arrivare a un'indicazione già sulla garanzia che dai alle banche, a qualunque banca europea, potrebbe allentare la tensione sulle borse europee dell'area euro, no? Sì, assolutamente. Il problema è di due tipi per quanto riguarda l'unione bancaria. Il primo problema è che è una cosa rapida, relativamente rapida, ma non rapidissima, perché ci sono dei passaggi legislativi e dei passaggi tecnici che non ci permettono di fare la cosa 6 mesi. Ho l'impressione che ci voglia un po' di più di tempo. Primo aspetto. Secondo aspetto, inevitabilmente agli occhi di alcuni paesi, e direi di molti paesi, l'unione bancaria richiede un certo grado di unione politica, richiede un certo grado di controllo reciproco, certo, tra i paesi membri, perché se noi parliamo di unione bancaria e quindi parliamo di garanzia in solido dei depositi, per esempio, beh, inevitabilmente alcuni paesi con ragione chiederanno di avere delle garanzie, chiederanno di poter contare su un maggior controllo reciproco tra i paesi. Quindi per certi aspetti l'unione bancaria deve trascinarsi dietro un po' di unione di bilancio. Sì, quante chance dai? Tanto fare una previsione non costa nulla, c'è anche Italia-Germania giovedì, ma quante previsioni dai che questo documento venga recepito in maniera insomma significativa, che abbia un senso? Il documento non verrà messo, cioè non deve essere recepito, certo. Questo documento non verrà messo al voto, non deve essere recepito come tale. Ci sarà all'interno delle conclusioni del vertice una parte dedicata al futuro dell'Unione Monetaria e credo che sia plausibile che verrà chiesto a Herman Van Rompuy di entrare più nel dettaglio di alcuni aspetti di questo rapporto. Credo che i paesi vorranno chiedere al Presidente del Consiglio europeo di ragionare in modo molto più concreto, direi sull'unione bancaria, mi sembra l'aspetto più concreto e direi più realizzabile a breve termine. Grazie, staremo a vedere, è importante che almeno qualcosa appunto passi, è importante capire che, io devo dire che da un punto di vista politico è già importante che sia un oggetto di discussione, un anno fa non se ne sarebbe neanche potuto parlare in un vertice europeo di garanzia comune per tutte le banche e comunque un'emissione di debito europeo anche solo per i finanziamenti, per cui insomma già il fatto che si discuta di questo è un piccolo passo in avanti, non so se abbiamo il tempo tecnico per continuare a ragionare senza decidere. Grazie intanto a Beda Romano, il meteo, la pubblicità e poi la borsa e la vicenda Monte dei Paschi. 349-238-6666 per i vostri sms. minuti, di nuovo in diretta con Sebastiano Barigioni, parliamo adesso di borsa e poi di Monte dei Paschi, poi dei consumi, con il presidente dell'Istat da una parte e il presidente Confindustria Giorgio Squinzi dall'altra, con cui tratteremo anche i temi europei, la borsa. Ancora sui titoli vedo molti commenti, c'è chi critica anche che usiamo la tarantella, beh insomma ogni tanto questo paese, cioè, no, dire che la Germania ha sbagliato non vuol dire che noi siamo perfetti, anzi forse no, ci siamo trastullati per 15 anni, tanto andava tutto bene madama la Marchesa. Allora Monte dei Paschi meno 5,30%, ST Microelectronics meno 5,22%, Impregilo meno 5%. A2A meno 4,80, Banca Popolare della Emilia Romagna meno 4,40, Ansaldo CTS meno 3,60, Banca Popolare meno 3,5, UbiBank meno 3,30, Finmeccanica meno 3,20, Fiat meno 2,90 come Mediolanum, il 2,60 lo perde Atlantia, ma anche la Popolare di Milano e Unicredit. Guadagna qualcosa Telecom Italia, lo 0,40, Enel lo 0,34, Luxottica più 0,26%, Generali invariata, Enel Green Power meno 0,17, Eni perde meno della media, meno 0,51%, la borsa non ha chiuso sui minimi, meno 1,1% comunque, a Milano meno 0,30%, a Parigi invariato Francoforte, Londra anch'essa invariata, come sempre con Radio Cori, Sole 24 Ore, Guido Maurino, buonasera. Buonasera. Allora, niente a che vedere con i cali di ieri, però di nuovo Milano e Madrid le più deboli, Sì, di nuovo Milano e Madrid le più deboli, anche perché le banche si sono mosse in ribasso dopo che lo spread è tornato di nuovo a salire verso i 470 punti base. Da più parti anche il Premier Mario Monti oggi ha invocato delle soluzioni per lo spread, però lo spread continua a salire e le banche italiane che hanno molti titoli di Stato italiano al loro interno continuano a soffrire. Sì, continuano a soffrire le banche perché hanno questo impancio. Tra l'altro prima un ascoltatore scrive, ha scritto, beh, io non vorrei salvare le banche tedesche che sono piene di derivati, visto che loro non vogliono salvare noi. Non ha tutti i torti, le banche tedesche, come dall'ultimo rapporto, hanno in pancia, soprattutto Deutsche Bank, migliaia di derivati o derivati per miliardi, le banche italiane molto meno. Chiuso l'inciso, invece andiamo sui singoli titoli, lasciando stare Monte dei Paschi perché avremo un approfondimento apposito. Allora, STM e Steam Microelectronics cala parecchio, non ho visto notizie particolari, meno 5,22. Sì, le notizie non sono tanto su ST Microelectronics quanto su Infineon che oggi a Francoforte ha perso oltre il 10% dopo che la società che è attiva in un settore di attività vicino a quello di ST ha annunciato che i risultati del terzo e quarto trimestre saranno inferiori a quanto aveva annunciato in precedenza. In particolare nel terzo trimestre Infineon si attende ricavi in calo e nel quarto trimestre una crescita sostanzialmente nulla. È una notizia che, come spesso accade per questo genere di notizie, va a impattare anche su ST che appunto ha ceduto il 5,22%. Altri titoli, A2A, anche qui non capisco, non ho visto, meno 4,80%, in pregilo meno 5%, adesso ci arriviamo, quel lì è lo scontro Salini-Gavio, ma adesso restiamo su A2A intanto. Per quello che riguarda A2A le ragioni sono soprattutto un po' di ragioni tecniche, il titolo ha ceduto il 4,78% a 0,39,27 euro. Che rappresenta sostanzialmente un nuovo minimo per il titolo, il precedente della scorsa settimana era 0,39-36 euro, per gli operatori che guardano a questo genere di andamenti A2A potrebbe essere la vigilia di una nuova fase ribassista e si spiega soprattutto così in assenza di altre notizie societarie il calo di oggi. In pregilo oggi anche polemica da parte di Salini sulle ultime operazioni fatte da Impregilo, qui c'è una battaglia in corso, chi controllerà uno dei principali gruppi delle costruzioni in Italia, se, se il gruppo Gavio o se il gruppo Salini. Sì, diciamo che è una battaglia che andrà avanti almeno fino al 12 luglio, la data prevista per l'assemblea, e fino a quella data il titolo potrà subire dei movimenti a seconda delle giornate, al rialzo o al ribasso come abbiamo visto in queste settimane. Ieri il titolo era andato male, anche oggi il titolo ha ceduto il 5,05% senza che ci fossero notizie di rilievo sulla società, se non appunto la battaglia che sta contrapponendo i due maggiori azionisti. Ancora i migliori e peggiori in assoluto, per poi, ripeto, passare al Monte dei Paschi. Biancamano più 15,48, First Capital più 15,30, Media Contact più 5,40, i peggiori Stefanel meno 11,70, Ross meno 7,50, Mittel meno 5,70 e il Banco di Desio che perde il 32%. Grazie a Guido Marino, Radio Colle sulle 24 ore. Adesso ci spostiamo dopo il traffico, chiaramente, sulla vicenda Monte dei Paschi, perché oggi Monte dei Paschi di Siena ha ricevuto intanto dal Consiglio dei Ministri il via libera, per cui lo Stato avrà un'operazione, metterà a disposizione al massimo 3,9 miliardi di euro, compresi 2 miliardi per il rimborso dei Tremonti Bond, ma c'era il Consiglio di Amministrazione del Monte dei Paschi stesso che deve deliberare l'aumento di capitale da 3 miliardi di euro. Ne parliamo dopo il traffico. Di nuovo in diretta, restiamo sul tema di borsa. Monte dei Paschi oggi peggior titolo, meno 5,27% tra quelle maggiore capitalizzazione, a 19 centesimi di euro per azione. Cesare Peruzzi del Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera. Allora, via libera del Consiglio dei Ministri all'operazione che ha una disponibilità massima di 3,9 miliardi, dicevo, che includono però anche 1 miliardo e 9 di rimborso e Tremonti Bond, e il CDA del Monte dei Paschi si è concluso? È ancora in corso. Comunque dovrebbe approvare il piano industriale e ufficializzare la richiesta di aiuti allo Stato attraverso appunto la sottoscrizione di un prestito obbligazionario fino a 3 miliardi. Compresi però i 2 miliardi che deve ridare. Come si arriva a questo, Cesare? Si arriva perché l'autorità bancaria europea ha chiesto nei mesi scorsi, già in autunno, un rafforzamento patrimoniale a Monte dei Paschi, non soltanto al Monte dei Paschi, ma per la Banca Senese di 3 miliardi e 200 milioni. Quindi una cifra importante, per raggiungere la quale il Monte dei Paschi ha effettuato alcune manovre che però hanno raggiunto un obiettivo sì e no della metà, diciamo un po' sopra la metà dell'indicazione dell'autorità. Quindi serviva ancora un rafforzamento ulteriore, un cuscinetto finanziario, come si dice, sì. e la scadenza è il 30 di questo mese, e quindi nel consiglio di oggi l'amministratore delegato Viola, presentando il nuovo piano industriale, ha presentato anche la soluzione a questo problema, e la soluzione individuata da Siena è quella di chiedere un nuovo contributo pubblico attraverso questa formula che furono i Tremonti Bond e che adesso sarà questa obbligazione simile ai Tremonti Bond, ricomprendendo anche la vecchia esposizione. In qualche modo il Monte dei Paschi si troverà esposto nei confronti dello Stato per 3,9 miliardi. Questa è la situazione che dovrebbe mettere in sicurezza la banca dal punto di vista patrimoniale e consentirle di affrontare il rilancio, le cui linee scopriremo domani in conferenza stampa sono dentro il piano industriale. Allora, domanda. Intanto è interessante anche la nota con cui il governo ha giustificato il via libera a dare questi 3 miliardi di extra Monti Bond. Comunque di aiuto attraverso l'obbligazione al Monte dei Paschi. Scrive il Consiglio dei Ministri nella nota: l'intervento del governo si è reso necessario per rispettare l'impegno preso dall'Italia in occasione del Consiglio Europeo. A seguito dell'impossibilità comunicata dallo stesso Monte dei Paschi e di cui la Banca d'Italia ha preso atto di ricorrere per una parte dell'importo richiesto dall'EBA a soluzioni private di rafforzamento del patrimonio a causa delle attuali condizioni di mercato altamente volatili. Tradotto, il Monte dei Paschi non riusciva a raccogliere i soldi dai privati e quindi li ha dovuti chiedere allo Stato. Beh, è un po' quello che ho detto prima. Sì, certo. Il Monte dei Paschi da una parte aveva cercato di vendere altri asset, per esempio 150-200 sportelli nel nord-est, per dire l'ultima cosa, sì, che ancora poche settimane fa sembrava fosse realizzabile, piuttosto che Consumit, che è l'azienda di credito al consumo, e altre cose, gli immobili eccetera. Tutto questo si è scontrato con una situazione di mercato non favorevole, e ovviamente non è facile vendere con la pistola puntata alla tempia. L'altra questione riguarda l'ipotesi di aumento di capitale. Fare un aumento di capitale a prescindere dalla disponibilità della Fondazione di Siena o meno, in questo momento probabilmente il mercato non lo avrebbe recepito, e l'andamento del titolo a cui voi facevate riferimento prima lo dimostra. Sì, il titolo è minimi, 19 centesimi di euro, però ti faccio una domanda leggermente maliziosa. Scusami, ma una banca come Monte dei Paschi, che è la più antica banca al mondo, che capitalizza circa 2 miliardi e mezzo di euro, sì, ne chiede allo Stato 3 in tutto. 3,9 alla fine, di cui 1,9 sono quelli vecchi. Sì. Insomma, se io capitalizzo 2 miliardi e chiedo di aiuto allo Stato 3 miliardi... Sì. E praticamente mi ha salvato lo Stato, cioè sarebbe una, se io ti dicessi che è stato un salvataggio, no, di Stato mascherato da prestito aiuto? No, ma in parte lo è, ma questo era lo spirito anche dei Tremonti Bond, cioè un aiuto. Sì, vabbè, ma ho capito, pubblico. Ma un conto è chiedere 1 miliardo di aiuto se ne capitalizzi 10, è un conto è chiedere un aiuto che è anche superiore alla tua capitalizzazione in questo momento, ma in borsa. Insomma, questo diciamo sono interpretazioni, poi la sostanza rimane il fatto che loro hanno un'esposizione elevatissima avranno nei confronti dello Stato, a fronte della quale pagheranno un interesse, vedremo di quanto. Per quanto riguarda i vecchi Tremonti Bond era l'8,5%, quindi non pochissimo, e a fronte di questo Siena ha in portafoglio 25, quasi 26 miliardi di BTP, cioè di titoli di Stato italiani. Una buona parte di questi 25-26 miliardi di BTP scadrà nel 2015, cioè alla fine dell'arco di piano che Viola presenta domani. Allora è ragionevole aspettarsi che il Monte dei Paschi ipotizzi di chiudere la partita con lo Stato nel 2015. Ho capito. Ultima domanda, sì. Che cosa permette, chiaramente tu non sei Viola, ma che cosa permette di dire che con questo aiuto la vicenda si sarà chiusa? Perché la distruzione di valore di questa banca è stata un'operazione che poi leggeremo sui libri un giorno. Però dico, perché quando ti indebiti con lo Stato con tassi appunto alti, dobbiamo ritenere che a questo punto la situazione si normalizzerà? Proprio perché lo Stato ha una funzione normalizzatrice, cioè non è un soggetto di mercato che può in qualche misura approfittare di situazioni di difficoltà. Non è questo lo spirito con cui lo Stato interviene, e quindi è ragionevole aspettarsi che questo aiuto sia un aiuto alla stabilità della banca, la quale chiaramente dovrà dirci in che modo intende poi rientrare. È quello che volevo sapere. Sì, no, è chiaro ho ipotizzato prima qual è la via d'uscita a cui loro guardano, poi domani lo scopriremo. Io penso che sia quella. E, sapendo che nel 2015 lo Stato dovrà restituirgli 7-8 miliardi scambio, di BTP, in qualche modo loro sperano nel 2015 di arrivare al risultato. Chiaramente molto dipenderà da come la banca si muoverà in questi 2-3 anni, 2 anni e mezzo che ormai mancano, e da come il mercato gli consentirà di muoversi e da come saprà muoversi. È una partita aperta. Certo che Siena può ritenersi più rassicurata da uno Stato, tra virgolette, prestatore di denaro o azionista potenziale, che non da altri soggetti. Vabbè, no, ma ricordo un po' la vicenda Royal Bank of Scotland, insomma, quando una banca riceve con casi diversi, lì entrò nel capitale direttamente, qui, cioè, insomma, però diciamola tutta, io ti ringrazio molto perché la tua descrizione è molto puntuale e tecnica. Se non arrivavano i 3 miliardi e 9 dello Stato italiano, il Monte dei Paschi non stava in piedi, perché se tu non riesci a riaprire i mercati sul capitale eri fallita. Cioè, questo ce lo diciamo io e te, non ci sente nessuno, ma ci siamo detti. Va bene, grazie a Cesare Peruzzi. E noi adesso invece torniamo ai temi più di carattere nazionale ed europeo. Allora, non rispondo alle polemiche su Berlusconi in un senso o nell'altro. Ho già detto ieri che la proposta di tornare alla lira è un esercizio retorico, ma di cosa stiamo parlando? Avremo un danno tragico in Italia, non perlomeno in questi termini. A chi dice davate la colpa a Berlusconi dello spread, non posso rispondere ogni volta su questo. Faccio solo riascoltare, visto che mi provocate, cosa disse l'ex Presidente del Consiglio il 4 di novembre in piena spread a 530 punti, che la crisi non c'era, i ristoranti erano sempre pieni. Noi siamo veramente un'economia forte, la terza economia europea, la settima economia del mondo. La vita in Italia è la vita di un paese benestante. In tutte le occasioni questo si dimostra. I consumi non sono diminuiti. I ristoranti sono pieni, gli aerei bisogna con fatica si riesce a prenotare dei posti, i posti di vacanze nei ponti sono assolutamente iperprenotati. Ecco, non credo che voi vi accorgiate, andando a vivere in Italia, che l'Italia senta un qualche cosa che possa assomigliare a una forte crisi. Non mi sembra. Ok, 4 novembre 2011. Allora è chiaro che non vieni creduto se dici che qua va tutto bene. Su, dopo il GR commenteremo, nonostante le previsioni dell'allora Presidente del Consiglio Berlusconi, commenteremo il dato di oggi. Istat, ad aprile e a marzo i peggiori consumi, il peggior crollo dei consumi, alla faccia dei ristoranti sempre pieni, dal 2001, da quando esistono i numeri, probabilmente anche da prima. E questo per dire, insomma, spread e non spread, responsabilità e non responsabilità. Di nuovo in diretta con Focus Economia e dopo aver parlato appunto dei temi europei, del documento della Banca Centrale, della vicenda che riguarda anche il Monte dei Paschi oltre che della Borsa, l'altra notizia di oggi, come dicevo, ha a che fare con le vendite al dettaglio, quindi i consumi, la domanda interna, come si chiama, sono crollate nel mese di aprile del 6,8% rispetto ad aprile del 2011 e di un 1,5% rispetto a marzo del 2012. Tra l'altro è il dato più basso, ossia il calo più forte nei consumi da quando esiste la serie storica, dal 2001. Per gli alimentari, cosa abbastanza rara, di solito si toccano meno i consumi alimentari, il calo è il più forte da 11 anni, meno 6% gli alimentari, meno 7,8% i non alimentari. Sui farmaci meno 9%, abbigliamento e calzature meno 8%, elettrodomestici meno 5%, PC e cellulari meno 4%, prodotti cosmetici meno 5%, giochi e giocattoli meno 6,6%, libri e riviste meno 7,2%. Siamo in collegamento con il presidente dell'Istat, Enrico Giovannini, buonasera. Buonasera. La media rischi di essere una media di Trilussa, anche se sappiamo che comunque il dato, il calo è generale. Tra l'altro mi sembra di aver visto, ma mi corregga se sbaglio, che non ha risparmiato nemmeno le tipologie di negozio, cioè non sono andati meglio gli hard discount o gli iper rispetto ai piccoli negozi. Ma effettivamente il calo dei consumi è generalizzato e non soltanto nel mese di aprile, ormai lo vediamo una tendenza che ha investito l'ultima parte del 2011 e questi primi mesi del 2012. D'altra parte, come abbiamo evidenziato più volte, la crisi della scorsa estate ha determinato un cambiamento psicologico nei consumatori che si sono resi conto che la crisi non è un fatto passeggero ma permanente e ha spinto chi poteva ad aumentare un po' i risparmi nell'ultimo trimestre dell'anno scorso e questo fa sì che si cerchi di contrarre la domanda di consumo il più possibile. Lei dice che un calo è una tendenza in atto, i Codacons oggi dicono sugli alimentari siamo tornati ai livelli del 1979. Dal punto di vista dell'economista la preoccupa di più che il calo sia generalizzato a qualunque comparto merceologico e a qualunque forma di vendita o che il dato forse più incisivo sia quello sugli alimentari, cioè che siano calati gli alimentari, purtroppo i beni durevoli è un po' che li vediamo in calo netto. Sì, gli alimentari naturalmente in calo non sono un buon segnale, anche se ricordo questi sono dati a prezzi correnti, quindi risentono eventualmente di offerte speciali che molti negozi stanno facendo per tentare di contrastare il calo dei consumi in termini reali, ma già nel 2011 abbiamo visto un calo degli alimentari, quindi anche questo non è completamente nuovo. Quello che mi preoccupa maggiormente è che mentre nella crisi del 2008-2009 altri paesi avevano aumentato la propensione al risparmio, come naturale secondo la teoria economica, in fase di incertezze io cerco di risparmiare un po' di più per proteggermi dal futuro, in Italia invece avevamo visto un aumento della propensione al consumo, come se appunto gli italiani pensassero che la crisi fosse un elemento assolutamente temporaneo. Passeggero, beh, c'era chi glielo diceva a suo tempo, però vabbè. Invece credo che il cambiamento che è avvenuto appunto negli ultimi mesi sia un cambiamento che stia provocando, come si dice in inglese, un overshooting, cioè una superazione negativa che purtroppo non fa altro che innescare ancora un calo di domanda, un calo di produzione, un calo Presidente Giovannini, lei ha ragione, probabilmente è l'effetto reazione, se per alcuni anni ti hanno detto, soprattutto il governo di allora, la crisi è passeggera, non è vero, i ristoranti sono pieni, i negozi sono pieni, poi ti accorgi che non è così, arriva un nuovo governo che ti dice siamo sul baratro, è chiaro che se passi tra virgolette da un eccesso all'altro. Mi dica solo una cosa in conclusione, però voi alla luce di questi dati sui consumi pensate di rivedere la stima sull'andamento del PIL per il 2012 come hanno fatto già altri istituti, le previsioni? Abbiamo stimato qualche settimana fa un meno 1,5 però c'è chi dice 1,9 ormai. Beh, questo dipenderà ancora molto direi dai prossimi giorni, cioè se l'Europa, come tutti dicono, riuscirà a trovare una soluzione e i finanziari smetteranno di soffrire in questo modo, è probabile che ci sia un rimbalzo. Se invece cresce, l'incertezza continuerà e questo naturalmente trasmetterà incertezza anche ai consumatori. È chiaro che la situazione può essere peggiore di quella prevista inizialmente. E quindi cruciale il 28 e 29 di giugno anche da questo punto di vista. Grazie al presidente dell'Istat Enrico Giovannini. Grazie a voi. Il traffico. Ultima parte di Focus Economia e allora continuiamo a parlare dei temi di casa nostra, debolezza estrema dei consumi italiani da un lato ma dall'altro anche i temi di carattere europeo, visto che la vigilia non è solo la vigilia d'Italia Germania, la vigilia di questo importantissimo incontro il prossimo 28 e 29 giugno e già oggi dicevamo in apertura di quanto è emerso dal documento approvato e che verrà utilizzato come diciamo testo di discussione dai leader dei paesi dell'area euro, il documento appunto Van Rompuy, Barroso, Draghi, quindi Banca Centrale Europea e Commissione Europea. Parliamo allora di consumi, di domanda interna, di temi europei. E allora dicevamo dati peggiori da 10 anni sui consumi e sulle vendite al dettaglio nel giorno in cui si è tenuta tra l'altro l'assemblea annuale del sistema Moda Italia, quindi di chi rappresenta la stragrande maggioranza delle nostre industrie nella moda, nel tessile, quindi in tutta la filiera. È presente all'assemblea annuale il presidente di Confindustria Giorgio Squinzi, che poi ci ha raggiunto nei nostri studi e di cui lo ringraziamo. Buonasera presidente innanzitutto. Buonasera a tutti. Non poteva esserci coincidenza forse peggiore per un sistema come quello della moda italiana che si muove sui consumi, sulla domanda interna oltre che sulla componente export, qual è il dato di oggi che va a confermare che sostanzialmente i consumatori italiani sono in frenata brusca, hanno il freno a mano tirato e che senza qualche forma di politica di incentivo che spezzi questa spirale negativa i dati futuri potrebbero anche peggiorare. Le iniziative interne, poi magari ci spostiamo su quelle più di carattere europeo, visto il vertice che inizierà dopodomani. Oggi rivitalizzare i consumi, secondo il mio punto di vista, in Italia vuol dire soprattutto ricreare un clima di fiducia nei consumatori, nei cittadini, per che ritornino a investire su se stessi e sui loro bisogni. Certo, è un momento particolarmente difficile e personalmente ho un po' l'opinione che lo sforzo per rientrare dall'indebitamento del nostro paese sia stato forse un po' troppo rapido e stia effettivamente mettendo in ginocchio i consumatori italiani e la disponibilità a fare investimenti da parte loro. Troppo rigore e poca crescita? Diciamo il rigore ci voleva perché non possiamo comunque nasconderci che noi abbiamo fatto per qualche decennio le cicale. Forse stiamo cercando di rientrare un po' troppo rapidamente e comunque noi dobbiamo per forza assolutamente ritrovare la crescita, perché se non ritroveremo crescita non saremo neanche capaci di ritornare a creare occupazione, che è l'altro grande problema che noi ci troviamo a fronteggiare oggi, perché poca occupazione vuol dire meno disponibilità di fondi per fare per consumare, per fare investimenti. Ecco, domani sarà nostro ospite il ministro Corrado Passera per in qualche modo suggellare l'iniziativa che abbiamo portato avanti, Disperati Mai, per gli imprenditori in difficoltà che avessero una linea d'ascolto quantomeno. Lei ieri è passata un'intera giornata con il ministro Passera, queste cose immagino gliele abbia dette con forza, cioè che serve, perché abbiamo visto un decreto sviluppo in cui sì, ci sono tanti miliardi teorici, di veri ce n'è uno solo, sono tutti agganciati diciamo a cofinanziamenti, non sono soldi che vivono da soli. Diciamo che nel decreto sviluppo il ministro Passera ha cercato di individuare alcuni assi virtuosi per ritrovare lo sviluppo. Il grande punto, cioè, quindi la concezione di base io la giudico positivamente. Certo sono ancora leggermente perplesso per la disponibilità effettiva che ci saranno di fondi e per la capacità vera di passare alla realizzazione degli obiettivi fissati nel decreto sviluppo. Cioè lei teme che poi i soldi non arriveranno? Beh, credo che ci sia un forte controllo da parte in questo momento della Ragioneria dello Stato, ma credo che molto dipenda anche dalla effettiva capacità di fare risparmi da parte della pubblica amministrazione. Personalmente io ho molta fiducia in Enrico Bondi, che ho sempre apprezzato come grande manager, e da lì penso possa effettivamente venire sicuramente un primo consistente risparmio che dovrebbe aiutare a ridurre la pressione fiscale. Mi sembra che i numeri che girano stanno individuando una base di partenza nell'ordine dei 5 miliardi. Ma credo che sia poi soprattutto un esempio virtuoso che è necessario dare a tutti nel nostro paese. Veniamo ai temi europei. Il Sole 24 Ore, sia come gruppo che come quotidiano, sta seguendo in questi giorni con diverse iniziative quelle che noi abbiamo battezzato, insomma, i giorni cruciali, la calda estate dell'euro, i giorni cruciali per la moneta unica, e domani ne parleremo con il direttore Roberto Napoletano di una nuova iniziativa che partirà proprio da venerdì in allegato con il quotidiano. Però è chiaro che, insomma, tra il vertice di Parigi di oggi, in cui sembra che le pressioni sulla Germania aumentino per dire condividiamo una parte del debito e i singoli paesi possono innalzare il debito se gli altri paesi sono d'accordo, e le pressioni che arrivano dai mercati, insomma, giovedì, venerdì ci giochiamo, non dico una fetta, ma un pezzettino di euro ce lo giochiamo o no? Ma io credo che il 28 e il 29 noi ci giochiamo non solo l'euro, ma ci giochiamo una grande parte del nostro futuro. Noi dobbiamo essere capaci di andare con determinazione nella direzione degli Stati Uniti d'Europa, rinunciando progressivamente, magari con tempi tutti da stabilire, alle identità nazionali, ma comunque se non rimettiamo assieme i 5 punti chiari, Banca Centrale Europea con veri poteri di Banca Centrale, fisco, welfare, infrastrutture e energia, l'euro rimarrà una costruzione artificiale che non ha possibilità di durata nel medio-lungo termine. Ma lei, come imprenditore, avendo produzioni in decine di paesi, teme moltissimo, perché la Germania si è accorta che forse l'euro, se crolla, qualche danno lo fa anche a loro, tipo 5 milioni di disoccupati potenziali. Lei lo teme questo dal punto di vista dell'imprenditore, in questo caso? Beh, io direi che più che temerlo sono terrorizzato da una caduta dell'euro, perché questo vorrebbe dire riportare indietro di qualche decennio il livello di vita in Europa. Un'ultima domanda: oggi alla Camera va il disegno di legge sulla riforma del mercato del lavoro. Insomma, lei si è già espresso in qualunque modo possibile, insomma, noi siamo in radio, siamo in una fascia protetta, però l'ha definito anche una boiata. Però insomma, è pace fatta col ministro Fornero? Pace non direi, diciamo che la valutazione reale è che in effetti la riforma del mercato del lavoro non ha migliorato la flessibilità in uscita, se non molto marginalmente, e ha peggiorato la flessibilità in entrata. Quindi se deve essere approvato entro il 28 mi sta bene, ma poi dopo dovremo mettere mano sicuramente a una revisione. Il ministro Fornero ha detto che mi convincerà del contrario. Io sono per natura uomo di dialogo, sono disposto ad ascoltare, non sono così convinto di farmi convincere. E convincere lei il ministro? Ci proviamo, io ci proverò. Grazie al presidente di Confindustria Giorgio Squinzi. Grazie a tutti, arrivederci. E grazie ancora, ma colgo l'occasione anche della sua presenza, Presidente, per, già lo dicevamo prima, ricordare che domani il ministro Corrado Passa sarà ospite di Focus Economia per in qualche modo dare una risposta complessiva. È chiaro che non possiamo rispondere a tutti, alle migliaia di mail che sono arrivate a Radio 24 per l'iniziativa Disperati Mai. Vorrei chiudere con questo, in modo che utilizzando il Presidente Squinzi e poi domani il ministro Passera, usiamo questa lettera come ponte tra due esigenze. Domani appunto le risposte, la maggior parte delle lettere che avete mandato le abbiamo girate proprio al ministro, che ha avuto modo di leggere. Domani cercheremo di dare delle risposte così aggregate di gruppo. Buongiorno, nel 2008 ho aperto insieme a due soci una cooperativa di produzione e lavoro per gestire un centro di estetica e benessere a Milano. Abbiamo dovuto sostenere ingenti spese per la ristrutturazione dei locali e per l'attrezzatura, tanto che a fine 2008 risultava che la cooperativa poteva vantare una grossa somma di IVA a credito. Siccome eravamo all'inizio, avevamo ancora dei fornitori da pagare, avevamo bisogno di liquidità, abbiamo deciso di richiedere il rimborso di parte di quest'IVA a credito e con sommo stupore lo abbiamo ottenuto in tempi brevi, 2-3 mesi dalla richiesta. A gennaio 2012, ben 3 anni dopo aver ottenuto il rimborso, ci è stata notificata una cartella esattoriale in cui si dice che, in seguito degli accertamenti fatti dall'Agenzia delle Entrate, noi non avevamo diritto a ricevere quel denaro, pertanto siamo stati chiamati a restituirlo con l'aggiunta degli interessi di mora per una somma complessiva di 32.700 euro. A noi ne erano stati rimborsati 25.000. Dal 2008 a oggi sappiamo com'è andata l'economia, la nostra attività non è mai riuscita a decollare come avrebbe potuto. Alla luce di questa somma così grossa da pagare non ci resta altro da fare che dichiarare fallimento e chiudere. Visti i fatturati bassi, le banche non ci danno credito, i nostri capitali personali sono ormai prosciugati, non abbiamo alternativa. In questi giorni i telegiornali sono pieni di persone che fanno gesti disperati per situazioni analoghe. Mi sono chiesta più volte se anch'io mi ritroverò a quel punto e la risposta è no. No, perché ho una figlia di 12 giorni da crescere, perché ho un compagno meraviglioso che mi sostiene sia economicamente che moralmente e una famiglia che fa quello che può per darmi una mano. Ma la domanda sorge spontanea. Lo Stato dov'è? Domani, dalle 17 in poi, anche questo e anche di questo parleremo con il ministro Passera. Radio 24. La passione si sente.